Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. È bellissima, intramontabile anche questa, ma io l'avrei accolto un po' spudoratamente dicendogli ti amo, ti amo, però non so poi in che dolce compagnia sia ultimamente. E quello è insomma un inno veramente senza tempo e no, intramontabile, devo dire. Avrete già capito di chi si tratta, ma io lo stesso gioco lo voglio fare comunque, anche se dopo tanti anni un po' di più di questo personaggio ne sappiamo. Ma se tu dovessi definirti con tre aggettivi, cosa diresti? Ah, per chi mi conosce sicuramente, se dico che sono un buon gustaio, già è qualcosa. Poi, sì, quindi un personaggio torinese, torinese beatlesiano. Quindi abbiamo detti, sì. Abbiamo detti tutti. Già il fatto che uno dica buon gustaio, sei uno che si gode la vita. Tu o solo provo, per quanto sì. Ci provi? Ce la metto tutta, sì. E ce l'ha messa tutta con 30 anni e più di successi clamorosi. Umberto Tozzi, che mi ritrovo finalmente qui davanti a Storielle. Umberto, quindi, buon gustaio, l'abbiamo detto, torinese, tu sei nato a Torino. Intanto, Umberto Tozzi, lo sapete, ha venduto più di 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Dicono così, sì. Dicono così, ma credo che lui abbia avuto i riscontri necessari per confermarlo. Ed è qui non soltanto perché comunque è un personaggio che appunto non tramonta mai, fa parte dell'immaginario collettivo con le sue canzoni, delle nostre colonne sonore, di chi è più giovane, meno giovane, ma anche perché hai prodotto questo... Ho appena finito una produzione importante, sì. Questo ultimo CD che si intitola Superstar. Sì. E la peculiarità di questo album è che ci sono i lati B dei tuoi successi, no? È una cosa abbastanza particolare questa. Non tutti sono la TB, però sono buona parte del repertorio che era nel contesto di altri titoli del mio repertorio, e li ho estrapolati e li ho messi insieme, li ho rifatti, li ho risuonati e sono diventati molto più attuali, anche se in origine erano forti, ma insomma l'epoca era diversa, quindi le sonorità sono cambiate tanto. Però fondamentalmente è stata una scelta molto facile da fare per me, perché riascoltando il mio vecchio materiale ho risentito questi brani che secondo me meritavano di essere risentiti oggi. Di avere un po' un posto di prima fila, visto che magari la gran parte, sì, diciamo non tutti, erano sul lato B dei tuoi successi, sì. No? E poi, vabbè, perché erano stati veramente oscurati da dei titoli pazzeschi come Ti amo, Gloria, Ti amo c'è comunque, no? Sì, c'è la versione live. La versione live di Ti amo. E tu hai insistito per quanto riguarda gli aggettivi, l'hai detto con compiacimento, con orgoglio, torinese. Perché tu sei nato a Torino un po' di anni fa. Sì, sono nato a Torino, ma sono... Sì, non so se si può dire, ma sono un bastardo doc, nel senso che... Si può dire, se tu ne sei consapevole. Perché... Genitori pugliesi. Mio papà, sì, era pugliese, mia mamma quasi napoletana, quindi cioè, sono nato per sbaglio a Torino, però... però così sono felice di aver vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza lì e... Ho un gran bel ricordo di quei periodi e poi artisticamente ho avuto la possibilità di crescere lì e questo insomma è stato... A parte che i bastardi doc spesso sono i migliori, no? Quelli un po' una miscellanea, sì, di provenienze, essere solo nato, cresciuto in un posto con genitori di quel posto, per carità, però forse apri un po' più gli orizzonti, il fatto di avere genitori di provenienza diversa, essere stato in un'altra città e poi cambiarle magari nel tempo, no? Forse... Sì, ho vissuto un po' da zingaro la mia vita, insomma, si può immaginare col mestiere che ho fatto e che sto facendo ancora, sono sempre stato abbastanza nomade, ho girato tanto, non ho punti di riferimento, insomma, ho visto il mondo in diverse sue sfaccettature e con piacere poi ho scelto di vivere un po' a Roma, un po' a Milano, un po' a Firenze, un po' a Bologna. E poi ultimamente a Monte Carlo. Adesso vivo a Monaco, sì, da molti anni. Come mai questa scelta? Ma fondamentalmente per un sano egoismo da genitore, come si suol dire, in quanto i bambini erano piccoli, ho due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, Nati e Gianluca, erano piccoli e sicché niente, insomma, dopo un periodo di vita a Roma volevo andare a vivere in un posto più tranquillo. Sì. E ho scelto Monaco perché mi piace, non, è un grande paesone tutto sommato. Effettivamente, sì. Sì, ed ero certo che comunque la sera se uscissero ritornavano a casa tranquilli. Tra l'altro tuo figlio, 23 anni, è lui che ha prodotto questo tuo album, se non sbaglio, Superstar. Sì, Gianluca è un ragazzo giovane però molto, insomma, molto talento, molto, molto bravo, molto, ha molta passione e si dedica moltissimo alla produzione. Lui in qualche modo, insomma, si è buttato a fare questa attività anche se contro la mia volontà, perché io non gliel'ho sempre sconsigliato. Sempre i genitori che sono star. Sono sempre contrari, sì. No, già fortunatamente non è musicista e non canta, questo è già un miracolo e va molto bene. Quindi, comunque nel settore, ma con una veste un po' diversa da... Sì, no, io spero comunque sempre che la smetta e che vada a fare altro, però... Ma secondo me... Senti, Superstar, quindi abbiamo detto che si chiama questo album, si riferisce a te? Sì, mi sono dedicato questo appellativo, è anche una canzone, ne ho dedicate tante ad altri e questa me la sono dedicata a me. Superstar, quali sono gli ingredienti, gli elementi per essere una superstar secondo te, secondo Umberto Tozzi? Io credo le superstar siano, siano non tante, insomma, in qualche modo nella musica specialmente non ce ne sono tantissime, almeno in Italia. Ci sono tante superstar nel mondo anche perché hanno il vantaggio di parlare in inglese, che aiuta un po'. Beh, certo, la diffusione. Però credo si possa dire superstar un artista che è conosciuto in più paesi nel mondo. Ecco, questo... Perché tu questi 40 milioni di dischi che si diceva li hai venduti in tutto il mondo, non soltanto in Italia, no? Sì, assolutamente sì. Sono stato anche molto... molto fortunato, privilegiato per questo. Non avrei mai pensato che la mia musica potesse passare l'oceano, per esempio. Invece è successo più di una volta e questo, insomma, mi ha gratificato molto. Insomma, possiamo capirlo facilmente. Umberto Tozzi. Storielle. Storiacce. Sempre con voi Roberta Giordano, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e ho l'onore di avere Umberto Tozzi oggi ospite qui di Storielle. Stavamo parlando un po' dei suoi inizi, di come si è definito buongustaio torinese, ci ha tenuto a sottolineare, e bitolsiano. Abbiamo parlato anche un po' di Umberto Tozzi uomo, quello che ovviamente vorrei che venisse soprattutto fuori, perché della superstar, come si intitola il suo ultimo album, sappiamo già molto, dei suoi successi, 30 anni di successi e più, 40 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Abbiamo parlato anche un po' di tuo figlio che ha prodotto il tuo album, e così un po' dietro le quinte parlavamo anche della figlia, di solito i papà, no? Con le figlie, 20 anni, e insomma mi ha detto con un pochino così di dispiacere che da Monte Carlo, dove state, vorrebbe venire a studiare a Milano. Sì, la Nati vorrebbe venire a studiare a Milano, sono molto in crisi per questo. Spero che avvenga qualcosa e che cambi idea. O si innamora lì a Monte Carlo? Non, no, perché peraltro seguirebbe il suo fidanzato che è qui, studia qui. Ah, ecco, e quindi neanche questa scusa si può... Quella difatti è un, insomma, sarebbe dopo riuscire a trovarne un altro, il fidanzato. Chissà, Umberto Tozzi, ti hai visto anche sentito nella sua veste di papà. Però ritorniamo un po' sulla tua storia. Adesso tra poco ritorniamo a parlare anche di Superstar, 16 tracce, poi c'è Ti Amo, che comunque... C'è la traccia di Ti Amo, ecco, Live, sì. Sì, il tuo grandissimo successo insieme a mille altri, a Gloria, a Stella Stai, Gli Altri Siamo Noi, insomma sono tantissimi, che già sentirete nello spot Vodafone, è ritornato... Di nuovo questo inno all'amore, un po' tutti hanno cantato, si continua a cantare, un po' è diventato anche un tormentone, no? Tu fai dell'autoironia anche su di te, le tue canzoni ogni tanto? Sì, figurati, io sono molto giocherellone. Quindi, torinese, se tu fossi nato a Liverpool? Forse sì, mi sarebbe piaciuto... Visto che sei un beatlesiano... Sì, mi sarebbe piaciuto essere stato il quinto Beatles. Però, insomma, di Umberto Tozzi penso tu ti possa accontentare, no? Di essere Ma stato scherzi, tanto. No, per carità, no, è solo che così, essendo anche stato un grande fan della loro musica, del loro repertorio... E mai incontrati? No, mai no. Un incontro forte della tua vita, che sia in campo artistico ma anche soltanto umano, quale può essere stato? Ma io ho avuto nell'80, credo che sì, era l'80, andai a Los Angeles per la prima volta nella mia vita e invitato dalla CBS. Che eri giovanissimo, quanti anni avevi? Nell'80 avevo 28 anni. E andai lì perché ero stato premiato in quanto ero uno degli artisti in Europa che vendeva più dischi per loro, per cui mi fecero questo grande cadeau e mi invitarono a una convention mondiale della CBS con tantissimi artisti, star internazionali, c'era Chicago, insomma. Bel parterre, insomma. Ho visto, sì, Barbara Streisand, ho sentito John McLaughlin, Santana, Jeff Beck. A 28 anni trovarsi in mezzo, sì, a tutti questi. E ho avuto il piacere di fare dietro le quinte una foto con il grande Jeff Beck, un grande chitarrista, e Stanley Clark, un grande bassista. E però, insomma, ho vissuto quella settimana in maniera veramente impressionante. Bel ricordo, insomma, bella folla. Ma se tu dovessi dire, quindi, come sei diventato Umberto Tozzi poi? Per un casissimo, perché sì, io non ho mai pensato di fare il cantante nella vita e ho cominciato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni, 13 così, perché per un motivo di ribellione col mio papà, e in quanto lui avrebbe gradito molto che io andassi a lavorare in banca, invece... sei finito in banca pure tu, diceva Venditti, invece nel tuo caso non è stato così. No, io dissi a mio padre che in banca potevo solo andare a fare una rapina. Per fortuna hai evitato anche questo. E sicché niente, ho trovato una chitarra in casa, perché mio fratello studiava violino, ha studiato violino a 9 anni, suonava il basso, eccetera, eccetera. Quindi c'erano musicisti che giravano in casa. E trovai una chitarra e imparai così, da solo, e poi suonai insieme a tanti musicisti a Torino, in varie cantine, fino a che poi, insomma, ho cominciato a fare chitarrista seriamente, e allora lì ho avuto la fortuna di fare dei tour importanti da Patrick Sampson, poi Adriano Pappalardo. Ecco, un incontro importante, possiamo dire, almeno per l'inizio della tua carriera, Umberto Tozzi, che sia stato a Milano proprio Adriano Pappalardo, no? No, ti ha detto lasciami sfogare, lasciami gridare. No, Adriano era grande. No, l'incontro importante è stato a Milano quando incontrai Giancarlo Bigazzi, che mi presentò Franco Daldello, che era l'editore del numero uno, dove io bazzicavo ogni tanto per cercare di fare un tour di registrazione e pagarmi il panino alla Crota Piemontesa in Piazza Beccaria. I tempi Beccaria. Epici che insomma non ci sono più. Esatto, sì. E questo era, insomma, il nostro vivere dell'epoca, era questo. E niente, dopodiché, insomma, sai, suonando, ho incontrato Giancarlo e lui mi ha in qualche modo convinto a cantare, perché insieme abbiamo cominciato a scrivere delle cose. Tu da solista nel 76 hai iniziato, 1976. Nel 76, sì, no? Sì, sì. E nel 74 io, già ho cominciato a scrivere e scrissi insieme a Damiano Dattoli una canzone molto importante che poi diventò un grande successo, fatta da Wes Dorighezzi, in Corpo Un'anima. Poi scomparso proprio in questi giorni, sì, no, sì, Wes? Sì. E poi invece nel 77, 1977, Ti amo, per chi non lo ricordasse, la grande esplosione è stata soprattutto lì, poi c'è stata Gloria, ci sono stati mille altri successi. No? Beh, Ti amo, insomma, è stata la canzone che in qualche modo mi ha dato anche la possibilità, insomma, di continuare a fare questa attività, perché se non successo... Cominciato a guadagnare, quindi, no? E poi comunque, insomma, sei salito subito alla ribalta, no? Sì, è stato veramente abbastanza inaspettato, perché non avrei mai pensato che Ti amo comunque fosse un titolo forte, sì, ma che passasse la frontiera di Chiasso, no? Quando... no. E invece è andata così. Sì, sì. Bello, bello, molto bello. Ma adesso non per fare i nostalgici a tutti i costi, però vogliamo dire che è vero che gli anni che hai vissuto tu, i tuoi grandi successi, anche se ovviamente continui a fare questo lavoro, hai pubblicato l'ultimo album di inediti 4 anni fa, no? Sì. Un'altra raccolta invece mesi fa, però che era un periodo diverso, era un'epoca diversa, quella degli anni 70-80, soprattutto per la musica italiana, o no? Assolutamente sì, era un periodo meraviglioso, specialmente per noi giovani che avevamo voglia di fare musica. C'erano dei grandi spazi con grandi famiglie musicali, nel senso che io ricordo la numero uno, ricordo la Ricordi, ricordo, insomma, altre etichette dove noi si bazzicava e c'erano direttori artistici che erano competenti, e questo è importante dirlo, oggi non è più così. c'era confronto, c'era insomma di tutto, l'editore parlava, diceva la sua, voglio dire, tutto faceva sì che un ragazzo potesse in qualche modo assimilare anche involontariamente tante nozioni importanti che poi metti in pratica dopo, però voglio dire, io come ragazzo ho avuto la fortuna di incontrare tanta gente importante che mi ha insegnato a fare questo mestiere. Secondo te, Umberto Tozzi, quindi è perché ci sono meno soldi e le case discografiche vogliono investire meno, riducono magari anche appunto tutte queste squadre di persone, talent scout, direttori artistici, eccetera, oppure perché c'è meno talento di una volta, o perché sono cambiate le priorità, i valori, perché, per quale motivo? Per esempio nel tuo ambito sono cambiate così tanto le cose? Sono troppo soli i ragazzi, secondo me, oggi. Non hanno... E poi non hanno visibilità, cioè non sanno dove andare. Io ne conosco tanti, sento molte produzioni che fanno, mi mandano CD, canzoni, eccetera. Purtroppo, sai, lavorare da soli senza confronto non è fantastico, perché non ti migliori. È come fare i 100 metri da solo. E mi pare che tu non abbia un'ottima opinione dei talent show, no? No, perché appunto sono dei contenitori, voglio dire, solo di spettacolo, ma non accrescono nulla, non danno visibilità importante a questi giovani, insomma. Tu hai scritto di recente questa autobiografia, Non solo io, no? Sì. Qual è la cosa che più di te hai voluto far emergere? La verità, nel senso che quello che ho raccontato di me è un passo molto bello, molto importante, perché chi mi conosce musicalmente, chi mi ha seguito musicalmente, non conosce l'uomo, e a me andava molto che invece lo conoscessero, e quindi gli ho fatto un bel regalo, perché io sono così come mi sono descritto in questa biografia. Per esempio, la cosa che ti fa arrabbiare di più in genere? Beh, sono tantissime cose, ma quello che mi fa molto arrabbiare è fondamentalmente l'ingiustizia. L'ingiustizia è che si legge in tutti i telegiornali ogni giorno, e purtroppo, voglio dire, sono una persona sensibile, quindi assimilo anche queste negatività. Hai avuto più successo nella tua carriera musicale con le donne? Con le donne no. No? Donne ultimo classifica. Ah, sì? Sì, come è possibile? Sei un bell'uomo, hai avuto e continui a avere successo. Ma sono sempre stato molto timido, quindi non ho mai... Cioè, approfittato della tua posizione, insomma, molto in vista. Esatto, sì. Niente. Comunque è bello, perché visto che adesso invece ci si vanta molto, no, di avere gli uomini italiani, latini in genere, vantano un po' questo, stentano il fatto di essere grandi conquistatori, anche quando a volte non lo sono. Quindi, senti, invece per quanto riguarda l'Italia di adesso, tu vivi a Monte Carlo, da lì con che canocchiali la vedi, o con che prospettiva la vedi in Italia? Io sono contento, come ti dicevo, di aver portato i miei ragazzi a studiare lì, perché credo di avergli dato comunque una possibilità di frequenza con ragazzi di tutte le nazioni del mondo. In questa scuola internazionale che ho frequentato loro c'era di tutto, e quindi cioè, questa è una chance che secondo me, io difatti li vedo quando vengono con me ogni tanto in Italia, eccetera, sono dei pesciolini fuor d'acqua, ecco perché sono preoccupato che la Nati venga a studiare a Milano. Mi sa che Umberto Tozzi lo vedremo spesso a Milano, prossimamente, è possibile. Sì, davanti alla scuola. No, dicevo, la prospettiva dei ragazzi di oggi in tutti i settori è drammatica in Italia. Lo si vede, lo si legge, lo si sa da tutto quello che avviene, e sono molto preoccupato di questa cosa, perché cioè, sono anche facente parte in quanto genitore di ragazzi che non hanno le idee esattamente chiare come avevamo noi. Forse noi eravamo guidati o spinti da una fame che loro non hanno vissuto, di ideali da seguire che loro oggi non hanno. Non so che cosa sia, però in qualche modo mi dispiace molto, ecco perché cerco di aiutarli quanto è possibile per farli vivere una vita di passioni, non che debbano subire, capito, una professione piuttosto che una... Ci provo. Tu sai cucinare? Sì, mi diletto, mi piace molto perché mi distrae, mi accendo la radio e sento il sugo. mi piace molto, sì, mi distrae molto, sì. Questa che vedi qui, Umberto Tozzi, è, facciamo sentire, cos'è? La lampada di Aladino. Ahi! Di successo, di gratificazione, insomma, ne hai goduto e ne godi. Ci sarà anche ancora un desiderio che vuoi esprimere? Ma guarda, desideri sono sempre tanti. Quello che professionalmente forse mi piacerebbe che succedesse sarebbe il progetto di realizzare un musical sulle mie musiche del mio repertorio. Non so se riuscirò mai a farlo, ma i titoli sono tanti, diversi, ma è anche musica molto popolare, molto cantabile, eccetera. Quindi dipenderà da te o dipenderà da altri? No, fatto dipende da altri, perché per affrontare una produzione del genere ci vuole, insomma, una produzione forte. Io posso fare l'artista e basta, insomma, in qualche modo credo di poter contribuire per questo, però il musical richiede veramente uno sforzo economico molto importante. Io mi ritengo invitata, come Dottore, ci credo fermamente e immagino che sarà così. Speriamo. Grazie Umberto Tozzi. Grazie a te, grazie a tutti. Sono sdraiato da superstar.